In scena, nuovamente in diretta in questo venerdì che anticipa il ultimo weekend del mese di aprile 2024 e ci spostiamo quindi a inizio maggio. È una rassegna che va dal 3 al 12 maggio, ha un nome molto affascinante tra l'altro la rassegna, ne parleremo con Natasha Zertok qua in diretta telefonica con noi. Buongiorno, ben ritrovata! Buongiorno, buongiorno a te William. Che bel titolo, è un titolo equino, è il manto di un cavallo il titolo a cui hai dato il nome alla rassegna. Come mai? Rabicante. Sì, abbiamo immaginato questo nome per questo festival, perché Rabicano è anche, è vero, è il manto del cavallo, ma è anche il nome di del cavallo senza peso di Astolfo. Che nell'Orlando Furioso va sulla Luna per recuperare il senno perduto di Orlando, che appunto io sono stato furioso. Più tecnico per quanto... ma è vero, nella grande letteratura esatto. Il nome del cavallo di Astolfo è vero. esatto, quindi è un po' un omaggio al Rinascimento, visto che proprio a Ferrara in epoca rinascimentale nascevano questi grandi spettacoli che occupavano buona parte del centro storico, dello spazio pubblico della città, per appunto dare vita a così messe in scene teatrali molto particolari, molto spettacolari e di cui si è un po' persa la memoria. Allora abbiamo immaginato in questo nostro cinquantennale di unire la nostra voglia, ecco, di donare anche alla città un momento di festa, ma anche di riflessione collettiva su temi importanti attraverso il teatro e l'arte, e contemporaneamente recuperare appunto anche la memoria di questa storia importante che caratterizza la città, che da quasi 50 anni ospita il Teatro Nucleo, che appunto nasce nel 74 in Argentina e poi a Ferrara arriva nel 77-78 su invito di Antonio Slavic, che era l'allora direttore dell'ex, dell'ormai ex ospedale psichiatrico di Ferrara, e dove appunto il Teatro Nucleo inizia a lavorare facendo teatro e anche quella che veniva definita animazione teatrale all'interno dei reparti, insieme ai pazienti, agli infermieri, ai medici, per accompagnare quella che insomma, che quest'anno anche ricordiamo, no? Questo grande movimento di psichiatria democratica, sì. Così guidato da Franco Basaglia, che diede poi il nome anche alla importante legge che portò alla chiusura dei manicomi. E quindi arrivano finalmente a Ferrara nel 77, da lì insomma inizia una lunga storia che attraversa tanti spazi anche della città, e però appunto una caratteristica del Teatro Nucleo ormai da tanti anni è quella proprio di portare il teatro non solo in luoghi appunto di disagio, di difficoltà, ecco così, della società, ma anche negli spazi pubblici, negli spazi aperti, e creando degli spettacoli pensati proprio per andare a cercare il pubblico, ecco, a cercare, sì, la comunità. Tra l'altro Ferrara è un palcoscenico naturale per tutto ciò. Assolutamente, assolutamente. No, io non so, adesso entreremo anche nelle sedi, citeremo, sì, anche qualche compagnia, daremo l'inizio per quanto, certo, riguarda Rabicano, Teatro Nucleo, per l'organizzazione. Uno dei luoghi di Ferrara che per me è veramente qualcosa a cui lascio il cuore ogni volta è la piazza Ariostea. per me di una bellezza, sì. Tale proposito, insomma, visto che abbiamo fatto delle citazioni letterarie. Verissimo. E subito con la mente mi sono portato in quello spazio a poca distanza. Verissimo. Dal Jazz Club del Torrione, a proposito di particolarità che hanno del teatro un naturale coinvolgimento, la bellezza. Verissimo. Delle mura estensi anche, per cui abbiamo, mi permetto di dire, un palcoscenico naturale veramente molto molto importante in una città stupenda. Ti ho interrotto. Bellissimo. Scusami. Figurati, figurati. Anzi, guarda, hai citato alcuni dei luoghi veramente più belli di Ferrara. Solo uno di quelli che hai citato toccheremo quest'anno con il festival, ovvero le mura di sì. Ferrara, perché appunto sulle mura ci saranno degli spettacoli 2/3, perché in realtà utilizzeremo anche il Torrione del Barco, che si trova proprio sulle mura ed è uno spazio sotto le mura. È uno spazio molto poco conosciuto della città, ma che si presta proprio moltissimo come spazio scenico, proprio sembra come un piccolo teatro con un volto bellissimo che crea anche un'atmosfera, un'acustica molto particolare, e ci auguriamo nei prossimi anni di utilizzare anche la Piazza Riostea e magari ancora il Jazz Club con cui abbiamo già collaborato. Certo, in passato, che ricordo, una programmazione sì. meravigliosa. Sì, sono tantissime le location che utilizzeremo, perché si snoda tra il centro storico e anche alcune aree più diciamo così periferiche o comunque lontane dal centro, ovvero la Piazza Buozzi di Ponte Lagoscuro, dove noi abbiamo la nostra sede, il Teatro Cortasar è appunto a Ponte Lagoscuro, quindi non potevamo che inaugurare qui questo primo festival di teatro per gli spazi aperti di Ferrara. Appunto il 3 di maggio la sera ci sarà la prima del Chicote, che è uno spettacolo di piazza con cui abbiamo girato per 3 continenti dal 90 fino al 2008 con oltre 400 repliche, veramente uno spettacolo che hanno visto in tanti tanti tanti, e quest'anno abbiamo deciso di riprenderlo proprio come parte integrante di questo festival. Sì. Appunto la prima sarà il 3 di maggio a Ponte Lagoscuro e lo replichiamo poi il 10 di maggio in Largo Castello. Ricordiamo che l'estensione è dal 3 al 12 maggio. Allora, Ferrara, per la microsensazione, ogni volta che hai lo sguardo posato anche casualmente su un angolo, su un momento, su un respiro, c'è qualcosa che ti dà una grande emozione, via delle volte, per dire, no? Per immaginare, per portarci in uno spazio dove ogni recinto, a proposito di questo cavallo rampante che arriva fin sulla luna, immagine bellissima che avete dato a questa segna, è veramente con un'attinenza forte per i percorsi a teatro e per conoscere oltretutto con entusiasmo tanti nuovi spazi. E quindi mi permetti un piccolo stacco musicale, poi rientriamo, e c'è un'estensione per quanto riguarda la partecipazione a questa rassegna, di cui magari parleremo, perché vedo veramente da ogni dove i protagonisti. Veramente. All'arrivo sì. nella città estense, e non solo, citiamo anche Ponte Lagoscuro di confine, tra l'altro, proprio sul Po. E puoi restare in diretta ancora qualche minuto? Assolutamente. A tra poco, Natascia, grazie. Ciao, a tra poco. Time I did, it was too late. Wound up with bellyache. As I flew out way past the stars, so far Ecco, in questa seconda parte ho affidato la colonna sonora ai Funky Low Lives. All the faces I thought I could depend on left me high and dry with nothing to spend. Con uno smooth soul elettronico, anche se vogliamo di facile e leggibile approccio pop, e alle 8.45 di questo venerdì 26 aprile, augurandomi che ci sia ancora in diretta telefonica Natasha di Teatro Nucleo, ci sei? Eccomi! Eccola! Bene! Allora, io do anche un'altra indicazione, l'ingresso per questa rassegna è gratuito. Dico bene, esatto. Ecco, questo lo sottolineiamo, però esatto. Indubbiamente è motivo di entusiasmo e filo conduttore di Rabicano quello che è un grande contenuto artistico in un palcoscenico meraviglioso che è Ferrara. Allora, vedo compagnie da tutto il mondo, ci puoi dire qualcosa di più, Natasha? Sì, avremo la partecipazione di compagnie veramente da tante zone d'Europa, dalla Slovenia, Polonia, dalla Spagna, organizzatori e amici che ci raggiungono anche dalla Russia in un momento non facile, anche per quanto riguarda l'arte e la libertà, la libera espressione artistica, diciamo, e quindi insomma siamo molto felici di accoglierli. Ci raggiungeranno già dal venerdì 3 maggio. Bravi, avete fatto bene a invitare dalla Russia, bravi, questo lo aggiungo già. Io. Grazie. E avremo iniziamo già il 3 e il 4 di maggio con un importante convegno che apre appunto con una riflessione sul teatro negli spazi aperti, con queste due giornate di studi, la rivoluzione del teatro negli spazi aperti dal Rinascimento ad oggi, coordinati dalla docente Carlo Fanelli dell'Università della Calabria, perché per noi questa è un'occasione anche importante di riflessione sul senso proprio del teatro negli spazi aperti, nello spazio pubblico. Quindi sì, è vero, è importantissimo l'aspetto artistico, creativo, quindi l'importanza dell'utilizzo proprio dello spazio urbano, dell'architettura, della scenografia naturale, diciamo così, degli spazi. Quindi questo è un aspetto sicuramente importante che caratterizza gli spettacoli che abbiamo invitato, ma lo spazio aperto per noi significa anche l'utilizzo di spazi alternativi, di spazi non teatrali e di aderire ad un'idea di teatro aperto, nel senso anche indirizzato a un pubblico ampio, non addetto ai lavori, un pubblico, certo, che normalmente non va a teatro, quindi diciamo ha tanti significati, ecco, soprattutto oggi anche in questo mondo contemporaneo, la scelta di utilizzare questo tipo di linguaggio che si declina in tanti modi diversi. Avremo infatti non solo teatro per gli spazi aperti, quindi drammaturgie pensate proprio per arrivare ad un pubblico molto ampio da un lato, e anche a utilizzare linguaggi che si prestano proprio ad essere fatti all'aperto, ma anche danza contemporanea, circo contemporaneo. Ci sono tanti spettacoli pensati proprio per un pubblico anche di giovani e giovanissimi, ci sarà un laboratorio di cronaca e critica teatrale a cura di Michele Pascarella, che chiude le iscrizioni il 30 di aprile. Anche questo è gratuito ed è pensato proprio per avvicinare un pubblico, anche qui non addetto ai lavori, come dire, capire un pochino più da vicino quello che è il senso, ecco, degli spettacoli proposti. un laboratorio di teatro corale a cura del Centro IAC di Matera, che è pensato per coinvolgere i partecipanti al workshop proprio nello spettacolo. Quindi questo spettacolo, che è uno spettacolo di teatro itinerante dal titolo Melchiorre e Euridice, che appunto invita gli spettatori a diventare attori, no? Quindi, certo, anche qui con un'idea di coinvolgimento veramente orizzontale e aperto del pubblico. Sì. Avremo un'importantissima compagnia polacca che si chiama Osmego Dnia, in Teatro dell'Ottavo Giorno, che sono nostri amici e colleghi che lavorano molto anche negli spazi aperti, con uno spettacolo dal titolo Arca, che ci sarà sabato 11 di maggio all'Acquedotto, a proposito di piazze particolari. Sì, la piazza 24 maggio è una piazza tonda, anche questa veramente molto bella, molto suggestiva, e questo insomma è uno spettacolo che davvero così rappresenta per noi anche un'idea del teatro di piazza molto aderente al nostro concetto, insomma, di portare delle vere drammaturgie, ecco, in piazza, non mero intrattenimento, ma proprio un teatro vero, ecco, bene, tra bene. Mille virgolette, pensato per gli spazi pubblici. Ti chiedevo di dare qualche indicazione anche per seguire, perché sai, ripetere e portare giustamente è importantissimo anche per sottolineare qualche appuntamento, ma c'è la possibilità, immagino, di consultare il programma per le nostre ascoltatrici o i nostri ascoltatori. Puoi dare qualche indicazione? Certamente, basterà andare sul sito di Teatro Nucleo, teatronucleo.org. Perfetto. E in home page c'è proprio il link diretto al programma di tutto il Festival Rabicano, che appunto inaugura il 3 di maggio e va avanti fino al 12. Quasi tutti gli spettacoli sono a partecipazione libera, cioè senza prenotazione, a parte lo spettacolo del Teatro del Lemming, che sono quattro repliche di uno spettacolo per uno spettatore, al quale possono partecipare 10 spettatori alla volta, quindi capite bene che lì la prenotazione è fondamentale. Per tutti gli altri semplicemente si tratta di ricordarsi l'appuntamento e farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, ma non è necessaria la prenotazione se non ai laboratori. Grazie, io ti auguro una buona giornata, un buon weekend, ci vediamo a Ferrara, grazie per la partecipazione. Rabicano dal 3 al 12 maggio 2024, Natascia Zertok in presentazione, Teatro Nucleo per la curatela della rassegna. Grazie, buona giornata Natascia. Grazie mille, buona giornata, ciao William. Ciao. A present life with the past she had, but all people change in many different ways, like the colors of the sky. She was living life in the city lights, far away from the countryside. Quest'oggi, con i saluti, ricordando che l'EDP Enciclopedico ritornerà lunedì, do appuntamento insieme ad Alfredo Pasquale alle 11.30 con il Jazz Live e la 34esima edizione di Angelica, oltre che il consueto weekend al Torrione, che sta arrivando a termine stagione 2023, ovviamente 2024. Grazie per l'attenzione alle ascoltatrici e agli ascoltatori del Breakfast Club. Lunedì alle ore 7 con i magazine, mi raccomando, puntuali per la prima colazione in diretta, a breve Liberi Dentro, poi rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Vi aspetto per le 11.30 e intanto vi auguro un buonissimo weekend, un caloroso abbraccio, buon ascolto, buon venerdì, ciao a tutte, ciao a tutti, dal vostro William Piana.